184esima trasmissione dedicata agli emigrati, ricordando Ezio Vittorio. Con questo breve repertorio di canzoni moderne friulane, che sanno però rispecchiare l'antica anima canora del Friuli, vogliamo rendere omaggio al caro Ezio Vittorio, di recente scomparso e amico di Friuli nel mondo, che ha diretto l'orchestra ed eseguiti gli arrangiamenti. È stata l'ultima fatica musicale di questo nostro autentico cantore, che ha saputo ispirare alla terra natale le sue opere, tra le quali desideriamo particolarmente ricordare il trittico Friuli e il Salmo per un emigrante. Ascoltate Il Fogolar, Fox Allegro di Savoia, cantato da Adriano Degano, di Di Donato, Balade, nell'interpretazione dello stesso Degano, Bambolute di Zuvisà, Walzer, cantato da Luigina Contardo, di Di Degano, Spesse Ait, canta Edda Pinzani, ed infine di Scoziero e Cimiotti, Amor Berechin, cantato da Edda Pinzani e Adriano Degano. Yere biele, ma tan biele, la fama de su que el bur, che chalang le mi pareve di sentis la già il cur. Soy entrat in ta che chase, plan plan con devozion, poi con qualche l'hai lasciata, io gli ho dato un sospiron. C'è biele, che chase, quel fuc dal fogola, c'è biele, la flame, qui frussa torator. Benedette, c'è antiche dal Friul, tu riguardi la mia infanzia, gli spanoli sul Puyul, gli cestini sugli sboris, la polenta e il ciavedal, sola linde gli scisili, se il volvin in tal vocal. C'è biele che ciase, quel fuc dal fogola, c'è biele la flame, cui frusta torator. Thank you. fia, ie fieste, ie ligrie, tal cur di duci mie, la paz dal fuoco là, tal cur di duci mie, la paz dal fuoco là, tra la la la la la la la la la. Sclopum stai parcum si, voi teme biele luzis, tra la la la la la. Stai par con si, voi de me biele lusis, tra la la la la la. Cel sorelli e plan plan in latiare si mettono veli neri e plan plan in latiare si mettono veli neri tra la la la la la la la la la na ne ni ne na oh piele frutte d'amore tra la la la la la la la la la la. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.